Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. 8:15, e come eliminare, qual è la prima canzone che vi influenza al mattino? Purtroppo non l'avete scelta e continua a ronzare nell'orecchio per tutta la giornata. Peter Bescapè in regia, grande aiuto, partiamo con le basi. Perché è così, anche questa mattina con Spunti di Vista, penultima puntata, andremo a incontrare i nostri corrispondenti stranieri e poi quali saranno gli argomenti che affronteremo. Ci siamo chiesti, anzi è stato chiesto a livello internazionale, cos'ha a che vedere la ridotta capacità riproduttiva dei giovani maschi di Lipsia e Amburgo, per esempio, con il TTIP, questo acronimo a cui non siamo ancora abituati in Italia ma che presto farà parlare molto di sé. Si tratta del Transatlantic Trade and Investment Partnership, vale a dire il più grande accordo di libero scambio che potrebbe essere firmato tra Europa e Stati Uniti d'America. La scarsa fertilità maschile può essere colpa del bisfenolo A, una delle sostanze chimiche contenute in molti tipi di plastica. È un allarme che lancia Die Zeit in Germania, ma non solo questo giornale, tant'è che il bisfenolo A, questa sostanza, è già vietato in Europa, nel senso è vietato usarlo nei biberon. Ma se passasse questo TTIP, il TIP come si chiama in italiano semplicemente, sarà possibile introdurre altre limitazioni come chiedono Svezia e Francia? Adesso abbiamo citato l'esempio del bisfenolo A, ma in un futuro prossimo e molto prossimo potrebbero essere denunciati tutti quegli stati che intraprendono misure a tutela della salute, misure a tutela dell'ambiente, misure a tutela dei consumatori o dei lavoratori, e da chi potrebbero essere denunciati? Dalle multinazionali, perché potrebbero reputare che delle regole intraprese dagli stati a tutela dei cittadini vadano contro i loro interessi. E questa libertà concessa alle multinazionali è oggetto di dibattito in tutta Europa, ma non in Italia. Per semplificare, perché le bistecche americane o i polli canadesi non vengono importati qui in Italia? Perché hanno una dose di ormoni artificiali consentiti in Nord America ma vietati in Europa. E questo è un esempio semplice di una norma che tutela la sicurezza alimentare. Ora, questo trattato, che potrebbe essere visto di buon occhio da entrambi le economie, sia dell'Unione Europea che degli Stati Uniti, per quel che riguarda la facilitazione allo scambio, contiene però un nodo molto controverso su come sanare i conflitti, perché nell'Unione Europea, per esempio, non sono vietati solo gli ormoni della crescita che si utilizzano a vitelli, maiali, ma per esempio in Europa è vietato lavare polli e tacchini col cloro, come si fa in Canada e negli Stati Uniti. Queste pratiche in Europa possono essere adottate solo se si prova che non sono nocive per la salute. Dall'altra parte il principio è esattamente il contrario, cioè pesticidi e sostanze chimiche si possono adottare finché non si dimostra che siano dannosi. Quindi questa legge che oggi vige nell'Unione Europea rovina gli affari di Kentucky Fried Chicken, di Pizza Hut e a tante altre catene. Monsanto, vogliamo parlarne, vuol vendere in Europa pancarrei, il white bread, il pane tagliato tipico del Nord America fatto con grano geneticamente modificato. Oggi non può. Insomma, parleremo di tutto questo, perché al di là del TIP, se sorgessero dei contenziosi perché per esempio uno Stato europeo introduce normative troppo stringenti, si va in tribunale, si può pensare. Invece no, non è così. Ma ne parleremo dalle 8:30. Alle 9 invece ci chiederemo, È possibile mettere fine alla violenza sulle donne, siano esse figlie, mogli, ex compagne? A un anno dall'approvazione della legge sullo stalking vengono uccise in Italia 12 donne al mese più o meno, cioè 144 donne dal 14 agosto al 31 luglio di quest'anno, 14 agosto dell'anno scorso naturalmente, 2013. Ecco, erano state 152 nello stesso periodo dell'anno precedente. C'è da essere soddisfatti di questa riduzione, ma ogni anno siamo qui a chiederci e ormai non ci stupiamo più di quante saranno. Invece noi vogliamo capire quali sono le ragioni, come mettere fine a questa violenza. Alle 9 ne parleremo con Dacia Maraini e con voi. Per esempio, credete che sia la cultura del possesso la mentalità da cambiare? Si devono cambiare le favole, l'appello che ha lanciato il presidente dei matrimonialisti italiani? Sono le favole che vanno abolite, quelle con Cenerentola e Biancaneve, quelle con le donne che stanno a aspettare di sposare un uomo che poi decida il loro destino? O sono le leggi da inasprire? Comunque, per tutti questi temi che tratteremo, 800 24 0024, questo è il numero telefonico. Prima però, visti da fuori. Benvenuta Josephine McKenna. Buongiorno. Buongiorno Josephine, sappiamo che oggi sei un po' raffreddata e ci spiace averti costretto a questa levataccia, ti terremo con noi il meno possibile. Josephine McKenna è una giornalista australiana, 30 anni d'esperienza, ha scritto di tutto e di più sull'Italia e viene tra l'altro da quel paese in cui molti degli italiani vorrebbero emigrare. Mollo tutto e vado in Australia, è uno dei leitmotiv, dei mantra che sentiamo spesso anche tra i giovani. E tra l'altro Melbourne è la città migliore al mondo per l'Economist e non è nemmeno la prima volta. Ci sono in top 10 molte delle città australiane. Cos'è che le rende così attrattive, così degne di essere vissute secondo te, Josephine? Per vivere in Australia la cosa più bella per vivere lì. Sì, cosa rende queste città così attrattive? Oh, attrattive. La qualità della vita, il clima, buon cibo, ci sono opportunità per lavorare, per avanzare, tanti motivi. Io devo dire preferisco vivere qua. E questo spesso ce lo dicono i nostri corrispondenti, nonostante ci siano tutte queste classifiche che piazzano i soliti noti, no? Ci troviamo quest'anno anche Vienna, Vancouver in Canada, Toronto in Canada, Adelaide, Sydney, Perth, per parlare del tuo paese Melbourne, ma molti corrispondenti che arrivano da queste realtà si innamorano dell'Italia. Perché, Josephine, perché preferisci vivere qui? Mi sono innamorata dall'Italia la prima volta quando sono venuta 30 anni fa e per me era un sogno di vivere qui. Mi piace molto l'arte, cultura, cibo, vino, ma anche la bellezza. Quest'anno per esempio sono andata in Puglia, in Toscana, al mare, in campagna e anche la varietà della natura è molto interessante per una straniera. E la diversità delle regioni, come si può comparire la Sicilia, paragonare la Sicilia al Piemonte, per esempio, le regioni sono molto diverse. Si compiono brevi distanze e si cambia completamente landscape, cioè paesaggio sotto gli occhi, ci sono realtà diverse, c'è una ricchezza artistica inestimabile. Sto un po' riassumendo, visto che stiamo per terminare questo appuntamento con Visti da Fuori, domani è l'ultima puntata, tante delle sottolineature che voi corrispondenti stranieri, pur venendo da realtà molto diversificate tra loro, tendete a cogliere sempre. Cosa hai scritto ultimamente sull'Italia? Perché tu hai 30 anni di esperienza in TV, in radio, internet, giornali, sei veramente molto versatile. Sì, io scrivo adesso per gli americani, inglesi, anche gli australiani. In generale devo dire c'è molto interesse al Papa, Papa Francesco, meno interesse dai miei lettori alla politica italiana senza di Berlusconi, purtroppo, perché secondo me Renzi è un primo ministro molto interessante, con molta energia, un profilo interessante, giovane, eccetera. Io scrivo molto sulla moda, sull'arte, cultura, cibo. In questi giorni ho pubblicato qualcosa sulla Della Valle, i cambiamenti, il restauro del Colosseo. C'è molto interesse, per esempio, su questo progetto. Ho scritto per una rivista a Hong Kong, in Scandinavia, in Australia, su questa cosa. E a proposito del Papa, perché hai scritto che Papa Francesco, visto che abbiamo notato che hai redatto numerosi reportage, approfondimenti un po' per tutto il mondo su questo pontefice, perché hai scritto che potrebbe andare in pensione? Potrebbe andare in pensione, ma lui ha parlato di questa cosa alcune volte, non in un modo molto chiaro, ma adesso sarebbe una possibilità, come ha fatto il Papa precedente. C'è molto interesse del concetto di un Papa che potrebbe andare in pensione, è una cosa rivoluzionaria secondo me. Però l'hai già vissuto una volta e quindi hai già testimoniato una situazione. Tu eri qui quando è successo con Benedetto, giusto? Esatto. Per me è stata un'esperienza meravigliosa, anche per essere a San Pietro, per vedere il fumo durante il conclave. È proprio un'esperienza meravigliosa, storica, una cosa medievale, devo dire. E per un'australiana è stata un'esperienza incredibile. E se tu dovessi ricordare tra tutti i temi, tutti gli articoli, naturalmente i pezzi che hai fatto per la TV in questi 30 anni in Italia, quello che più ha avuto a che fare con la tua vita personale, che ha cambiato anche la tua percezione di questo paese, quale tema citeresti? Una cosa molto difficile. Devo dire, mi piace approfondire di più la mia conoscenza, la sapienza della mafia, ma preferisco concentrare sulla bellezza. È difficile individuare un articolo, ma devo dire, ho scritto qualcosa molto profondo sulla Costa Concordia. E quando ho intervistato quelli soccorritori che hanno salvato le vite di tante persone, per me era una cosa molto emozionante e mi sono resa conto l'importanza e il contributo di quelle persone invisibili che non vediamo tutti i giorni sui giornali, e questa cosa era una cosa meravigliosa per me. Beh, credo che tu hai toccato l'essenza dell'ottimo giornalismo che fai, questa capacità di emozionare. Parli di emozione anche quando descrivi nei tuoi reportage i grandi della moda. Forse qualcosa che qui in Italia non si coglie. Abbiamo visto un tuo speciale su Dolce & Gabbana e forse perché abituati ai grandi brand della moda in Italia non l'associamo tanto all'emozione. Pensiamo che quello che la gente compra nel mondo siano abiti ben fatti. In realtà tu ci hai spiegato nell'articolo, si compra la voglia di sentirsi italiani. Cosa significa? Secondo me Dolce & Gabbana in particolare sono bravi perché hanno creato un brand, una marca che proprio vende l'italianità, posso dire italianità, e tutti vogliono comprare un pezzo di italianità. Made in Italy. E Australia, gli australiani sono gli stessi. E gli imprenditori dell'amore in particolare fanno espansione in Cina, in Asia, in Australia. E questa è una cosa anche bella per l'Italia. Ma visto che hai elogiato l'Italia in tutta questa intervista, cos'è qualcosa che ti innervosisce ancora in Italia? Un elemento negativo ci sarà di cui hai parlato anche nei tuoi pezzi? La cosa molto importante, molto urgente è cambiamenti. Cambiamenti economici per avanzare l'economia e per creare un futuro per i giovani. Questo è molto urgente. Grazie mille a Josephine McKenna, giornalista australiana, 30 anni di lavoro, non solo sui giornali, televisioni, radio, una delle più esperte della nostra associazione della stampa estera in Italia. Grazie per il tuo tempo, Josephine. Grazie mille, Irene. Buona giornata. Buona giornata a te. E naturalmente saranno raccolte tutte queste interviste in una pagina che troverete sul sito di Radio 24 a partire dalla settimana prossima. Noi tra poco invece andremo a parlare di qualcosa che sembra astruso e lontano, che in realtà avrà profonde ricadute sulla vita di tutti i giorni, vale a dire Free Zone, una sorta di trattato, il più grande del mondo. Pensate che tra Stati Uniti e Unione Europea un mercato di libero scambio comprenderebbe 850 milioni di persone. E allora tra poco luci e ombre di questo tip. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Aspetti che ci porteranno a prendere in esame il TIP tra pochissimo, 8:34, ancora buongiorno da Irene Zerbini. Perché si fa così poco per analizzare i meccanismi psicologici che spingono ad azioni feroci? Uomini considerati tranquilli padri di famiglia? Questa è una domanda che si è posta da Dacia Maraini e ne discuteremo insieme alla scrittrice a partire dalle 9. Intanto sono già arrivati i vostri contributi su questo tema. C'è qualcuno che attribuisce tutta questa violenza contro le donne, e non parleremo solo di compagno o ex compagno, perché pochi giorni fa, come sappiamo, c'è stata la violenza di un padre sulle due figlie a un giorno di distanza di un altro che aveva proprio tolto la vita alla sua unica figlia, e i giornali hanno usato la parola raptus, che però non significa niente e giustifica tutto. Perché questa aggressività, ma soprattutto come cercare di cambiare la mentalità. Ci dite, molti di voi, a cambiare devono essere le donne. 349-238-6666, questo è il numero di SMS, oppure 800-24-0024 per i vostri interventi telefonici. Una pagina economica insolita per l'informazione italiana, ma molto dibattuta all'estero, quella che riguarda il TIP. Pensate che è stato fatto un sondaggio su questo Transatlantic Trade and Investment Partnership, e questo è l'acronimo, e l'ha fatto l'Unione Europea, perché voleva così sentire gli umori degli abitanti. E cosa è successo quando ha messo online in marzo questa sorta di consultazione? È stato il sondaggio più cliccato da quando si fanno questo tipo di consultazioni, cioè hanno risposto più di 150.000 persone, dal Regno Unito 52.000, dall'Austria 33.000, dalla Germania 32.000 cittadini, perché in ballo qui è naturalmente la sovranità. Dalla Francia 9.000, dalla Spagna 2.500 e dall'Italia nessuno, o comunque talmente pochi da non essere nemmeno rilevati. Il punto più controverso di questo TIP è il meccanismo dell'arbitrato, detto ISDS, cioè Investor State Dispute Settlement, che sostanzialmente permette alle multinazionali o alle corporazioni una facilità estrema per denunciare l'Europa o gli Stati Uniti se ritengono che il loro interesse venga leso. Di tutto questo Parliamo con chi l'ha seguito molto da vicino, Antonio Cantaro, professore ordinario di diritto costituzionale. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e a voi tutti. Cattedra all'Università degli Studi di Urbino, per chi non lo conoscesse, e è un accordo questo di cui in Italia si parla poco, ma dovendo ripercorrere quelli che sono, diciamo così, i tronconi principali di questa bozza d'accordo, che tra l'altro non è nemmeno pubblica, non è accessibile ai più, e come la riassumerebbe, professore? Ah, intanto quello che avete sottolineato voi, che ha sottolineato lei, è importantissimo, un accordo strategico importantissimo viene presentato così dai suoi fautori, di cui i cittadini conoscono pochissimo, in particolare in Italia, mentre la posta in gioco è altissima. Ora ci sono opinioni ovviamente diverse sulla convenienza, i vantaggi, i disvantaggi e i costi, però innanzitutto noi dobbiamo mettere sul tappeto per una discussione trasparente e democratica qual è la posta in gioco. E diciamo che sono tre i capitoli di questa posta in gioco. Uno l'ha indicato lei stessa subito, diciamo, è lo Stato costituzionale. Nel momento in cui delle imprese transnazionali possono citare in giudizio i governi davanti a tribunali arbitrali creati ad hoc, nel caso subissero dal loro punto di vista delle perdite per atti normativi, quindi l'esercizio della sovranità massima, che è la sovranità di fare le leggi, è chiaro che è in discussione un fondamento essenziale dello Stato costituzionale, quindi un elemento essenziale del patrimonio costituzionale europeo, se vogliamo chiamarlo così. Possiamo fare, mi scusi professore, qualche esempio pratico? All'inizio di questa trasmissione noi abbiamo citato le carni, per esempio, nordamericane, i polli pieni di ormoni che qua non possono essere importati oggi perché gli standard europei non consentono questo utilizzo massiccio di ormoni artificiali, o altre sostanze che metterebbero a repentaglio, secondo la normativa degli Stati europei, la sicurezza alimentare tollerate altrove. E chiaramente, se un domani si introducesse una legge aggiuntiva, una norma a tutela dei consumatori, della salute, della sicurezza dei consumatori, che va a ledere i produttori, ora abbiamo citato le carni, queste ma ce ne sono mille. Possono citare in giudizio sia l'Unione Europea che gli Stati nazionali, eventualmente se sono gli Stati nazionali a introdurre questo tipo di norme. Il problema è che appunto in Europa vige un principio, che è il principio di precauzione, per cui c'è un'alta sicurezza per gli standard alimentari, per quanto riguarda gli standard sociali, ambientali, le leggi a tutela della privacy, che sono diverse da questo tipo di regolamentazione, queste le chiamano barriere normative, diverse da quelle vigenti negli Stati Uniti. Nel momento in cui si va a fare un accordo di libero scambio fondato invece che sul principio di precauzione, sul principio della liberalizzazione assoluta della deregolamentazione, e si attribuisce, torniamo al punto, alle imprese transnazionali il diritto tramite questo accordo transatlantico di adire in giudizio i governi se emettono o mantengono i provvedimenti normativi che dal loro punto di vista costituiscono una barriera alla libera circolazione, è chiaro che si mette in discussione. Da una parte, dicevo, il primo aspetto della posta in gioco è lo Stato sicurezza, poi lo Stato costituzionale e in qualche modo anche lo Stato sociale, con l'apertura amplissima, liberalizzante, dei servizi pubblici nel campo per esempio della sanità e dell'istruzione. Purtroppo questo accordo, di cui si conosce poco, si conosce però il fatto che riguarda praticamente tutti i settori economici, potenzialmente la gran parte dei servizi pubblici, e quindi è un accordo che bisognerebbe vagliare con molta attenzione nelle sue conseguenze ed implicazioni. Io dal mio punto di vista le ho sottolineato le implicazioni giuridico istituzionali, poi ci sono implicazioni geoeconomiche, geopolitiche, ma penso che avremo modo di parlarne. Speriamo quando non sarà troppo tardi, perché altrove se ne parla ormai da anni. Soprattutto adesso chiaramente ci possono essere dei vantaggi ad avere una free zone che comprenda 850 milioni di persone, e i vantaggi potrebbero essere anche dei consumatori, ma quello che preoccupa le opinioni pubbliche, definiamole così, altrove, è la scarsa trasparenza e come viene giudicato altrove. Introduciamo nel nostro dibattito anche uno spagnolo, Rossend Domenech, che saluto. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. ed è un giornalista inviato in Italia dal quotidiano spagnolo El Periodico. Abbiamo visto questa distrazione, questa disattenzione degli italiani verso quanto sta accadendo e che andrà a toccare, ad avere ricadute comunque su ogni cosa che utilizziamo, consumiamo e addirittura su come concepiamo i rapporti di lavoro, perché anche questo è in ballo in questo libero accordo e questa possibilità per le multinazionali di introdurre dei principi anche lavorativi di rapporti sindacali. In Spagna o comunque in Europa, visto che tu segui da tanto tempo questa questione per El Periodico e sei un attento osservatore di quanto accade in Europa e nell'Unione Europea soprattutto, quanta attenzione c'è? I quotidiani che chiamiamo generalisti non ne parlano. Ne parlano le web, i blog e alcune ONG che si occupano di questi temi, siano medioambientali o sanitari o in generale rispetto ai consumatori. Credo che qui dietro c'è due questioni, la causa perché se ne parla poco. Uno è la perdita della funzione del giornalista, da fare da intermediario tra, diciamo, le classi dirigenti, il capitale eccetera e i lettori, i cittadini, e l'altro è che purtroppo abbiamo attualmente in tutti i nostri paesi, non solo qui, delle classi politiche abbastanza distratte, per non dire mediocri o incolte. Questi due quindi tu non pensi che ci sia, perché di solito questo è l'accusa che si muove alle classi politiche, corruzione, ma addirittura peggio, cioè incapacità di leggere la realtà? Le due cose si sommano. In questi giorni gli europarlamentari possono vedere il testo della bozza che si sta trattando, ma la possono vedere da quando c'è il Presidente della Commissione Juncker, come se fosse una cosa, una grande apertura, la possono vedere in una stanza chiusa senza prendere appunti. È una cosa molto strana se si sta trattando una questione, come indicava il professore, di così grande portata. Cioè, immaginate questo, c'è una reading room in cui i rappresentanti europei possono entrare, non possono prendere appunti, non possono fotografare, non possono fotocopiare e leggere la bozza di questo accordo. Ora, quando manca la trasparenza, il sospetto è d'obbligo, soprattutto se si fa il giornalista. Dopodiché, ben felici di essere smentiti se si rivelasse che questo tip farà o farebbe davvero aumentare il benessere in Europa senza che carne agli ormoni e polli al cloro sbarchino nei supermercati. Dice Dia Zeit, non è escluso, ma quello che suscita molti interrogativi è questa grande segretezza e il procedimento di risoluzione delle controversie, di cui parleremo tra poco, perché anche se una multinazionale citasse in giudizio, diciamo così, uno Stato che ha introdotto, non so, una legislazione restrittiva sul livello di arsenico nelle acque, per fare un esempio, o sugli ormoni che si possono iniettare agli animali, anche se non si andrebbe davanti a un tribunale normale, ma davanti le procedure arbitrali praticamente permetterebbero di scavalcare i tribunali statali. Questi tribunali arbitrali che esistono da decenni per la risoluzione di queste dispute commerciali e hanno sentenze a porte chiuse, senza giudici, ma con parti nominate dalle parti in causa, e le sentenze sono irrevocabili. Mi scriveva ieri un giornalista da Washington che avevo appunto chiamato proprio per avere più informazioni, che addirittura si riuniscono nelle hall degli alberghi, quindi non c'è proprio accesso pubblico a quello che questi tribunali arbitrali fanno, e questo preoccupa decisamente. Sono molti quelli di voi che vogliono parlare, 800 24 00 24 e tra poco tocca a voi ascoltatori commentare quello che avete sentito. Intanto però il traffico. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Il Il grande trattato commerciale al centro di negoziazione tra Unione Europea e Stati Uniti, di questo stiamo parlando ora. Stefano, buongiorno e benvenuto. Pronto? Pronto? Buongiorno, da dove chiama Stefano? Buongiorno, sono dalla provincia di Roma. Dica. In questo momento sono ad Anzio. Niente, io come cittadino, insomma, poi adesso una grande associazione Onlus come cittadinanza attiva, resto basito, veramente stupito di questa cosa, nel senso che una cosa così importante non è stata assolutamente trattata dai media nazionali, quindi devo pensare soltanto a una cosa, a un accordo, a un complotto ben ordito tra i nostri politici e anche i media, cioè ci hanno tenuto all'oscuro, come succede poi normalmente in Italia, che è un paese che ha un grado di libertà mediatica molto basso, lo sappiamo benissimo, e questa è una cosa molto molto veramente grave, anche perché lei appunto ha parlato dei danni alla riproduzione e quindi non interessa il benessere se devo pagare con l'estinzione della specie, ma stiamo scherzando. Insomma. Grazie a Stefano. Forse immaginare uno scenario in cui le multinazionali telefonano ai direttori dei giornali italiani invocando il silenzio è un po' esagerato. Semplicemente c'è distrazione rispetto a questo, ma ne parleremo anche con chi rappresenta i consumatori per chiedere il perché di questo silenzio. Anche altrove i grandi giornali non ne parlano molto, ci ha raccontato il nostro amico giornalista spagnolo, esperto di alimentazione, e c'è un po' di reticenza e un po' di superficialità su quello che sta per accadere. Antonio, buongiorno, da dove telefona? Ah, in questo momento è caduto, quindi diamo la parola al Movimento dei Consumatori. Alessandro Mostaccio, benvenuto e buongiorno. Buongiorno. Perché chiaramente voi siete stati tra i primi a lanciare gli allarmi su quello che può accadere sul fronte del normale cittadino. Come spiega questo silenzio sul TIP? Beh, il silenzio in Italia probabilmente è causato da un lato proprio sulle caratteristiche del nostro paese, che è un paese molto ripiegato su se stesso, basta vedere quali sono stati i temi dell'agenda della campagna elettorale per il Parlamento europeo, cioè un'agenda in cui il TTIP praticamente non è entrato, ne ha parlato un pochino la lista Tsipras, Movimento 5 Stelle, ma senza una chiara strategia e senza una chiara comunicazione, secondo me rispecchia il nostro modo di guardarci l'ombelico, sempre incentrati sulla politica interna, e andiamo a discutere per pagine e pagine, ore e ore sul prezzo della benzina e non guardiamo il dito e non la luna, cioè, quindi è proprio un po' tipico. Noi abbiamo deciso di aderire al comitato no TTIP almeno fino a quando non aumenterà un minimo la trasparenza, ed è questo che chiediamo al governo italiano, ci dica almeno, dica all'Italia su 2-3 capitoli, tipo quella particolare della sicurezza alimentare, dell'ambiente, qual è la nostra posizione, perché si faccia portatore in Europa dell'esigenza della desecretazione di almeno alcuni atti, perché se nulla c'è da temere ci permettano, per esempio negli Stati Uniti d'America, l'altra parte del trattato di questo negoziato, le associazioni dei consumatori sono molto attive, molto preoccupate e molto più attente di come siamo in Italia. Public Citizens stanno conducendo una campagna da mesi, stanno approfondendo, stanno denunciando. In Italia no, ci occupiamo del diritto di recesso, del prezzo della benzina, insomma siamo un po' ripiegati sulla crisi interna, questo sta dicendo Mostaccio. Ognuno ha i suoi problemi, sicuramente, ma questo trattato, lei dice, non abbiamo preconcetti in sé, quello che ci preoccupa è la segretazione, la mancanza di trasparenza. Diciamo che questo è il primo trattato sul commercio e sugli investimenti che vuole essere realizzato per abbattere, attenzione, questa è la novità, non le barriere doganali, non le barriere tariffarie, sono le barriere legislative, decisamente. Esatto. Per cui vuol dire, ad esempio, cosa è successo per esempio ad Alessandria d'Egitto, in Egitto, quando lo Stato egiziano ha deciso di aumentare il salario di una municipalizzata che faceva servizi pubblici locali ad Alessandria, per più sarebbe trasporti e acqua, la Veolia che aveva in gestione il servizio per conto, cioè del una comune, multinazionale, quindi una multinazionale, spieghiamo chi è perché sembra una signora detta così, questo, no, ha citato in giudizio l'Egitto per dire no, se mi obblighi a pagare di più il lavoratore diminuiscono i miei utili, io ti cito in giudizio per il risarcimento dei danni della differenza del mancato guadagno che mi hai provocato, cioè è quello il meccanismo, cioè quindi quando chiedi di, che si assicuri che le legislazioni sanitarie o fitosanitarie delle parti, cioè UE e Stati Uniti d'America, non creino ingiustificate barriere al commercio, vuol proprio dire quello, che non sono barriere doganali ma sono barriere legislative, che poi sono, come dire, la cifra della civiltà di ogni parlamento, di ogni nazione, qual è stata la legislazione che storicamente si è assestata in uno Stato. E come diceva il professore, da noi in Italia le leggi sono sottoposte a un vaglio di legittimità costituzionale, non possiamo introdurre nell'ordinamento un vaglio di se stanno bene o non stanno bene a una corporation di turno transoceanica. Aumenterà i posti di lavoro questo trattato, professor Antonio Cantaro? Questo è possibile che avvenga in un settore, il problema è che bisogna valutare, come dicevo un po' poco fa, un argomento che va introdotto, l'impatto complessivo. Vede, il convitato di pietra di questo trattato, il principale è la Cina e poi la Russia. L'accordo è fatto per sostanzialmente creare una sorta di nato economica in contrapposizione al mercato eurasiatico, tant'è che la Germania è molto timida come questo, in questo argomento come in altri argomenti, a questa alleanza passiva che riduce l'Europa ad una provincia complessivamente dell'impero americano, anche se l'espressione può sembrare eccessivamente retorica. Quindi i costi e i calcoli che vengono fatti sull'aumento, sulla diminuzione dei prezzi, sull'aumento della concorrenza e quindi la migliore tutela dal punto di vista del prezzo dei consumatori non tengono conto, oltre che tutte le ragioni che sono state giustamente sottolineate dai vostri ospiti in studio, non tengono conto del fatto che questo accordo, l'abbiamo visto con la vicenda ucraina, su una vicenda di politica estera, ha poi dei costi indiretti, ma non tanto indiretti, espliciti e quantificabili, su altri piani. Chiaro. Fare un accordo di questo genere, la verità è che questo accordo, il silenzio, tutte le cose che sono state dette le condivido, ma c'è anche una ragione, se posso consentirmi. Certo che può. più di fondo, è il silenzio sull'integrazione europea, su quei valori di civiltà che venivano richiamati poco fa dalla rappresentante del movimento dei consumatori, a cui l'Europa crede sempre meno e quindi è disponibile a rinunciare persino al suo mercato interno, a rinunciare ad un incremento della domanda interna, lo vediamo su discussioni che stanno avvenendo sull'altro piano sulla riforma e la politica di austerità, sulla politica di crescita, pur di guadagnare qualcosa che probabilmente ci sarà ma che ha effetti in ogni caso molto limitati e che non tiene conto comunque che viviamo in un mondo in cui ci sono altri mercati, altri accordi da fare e che gli altri partner, gli altri competitori sicuramente reagiranno come stanno reagendo. L'industria automobilistica di Stati Uniti e Unione Europea è tra quelle che guarda con più favore all'accordo, ma sicuramente industrie come quelle agricole del cibo di qualità sarebbero sommerse dall'invasione di OGM. Rischia di essere massacrata da questo accordo. Naturalmente si possono avere, se l'accordo è trasparente, come veniva ricordato, delle compensazioni, si possono trovare delle soluzioni. Il problema è che l'accordo non è trasparente, se passa il principio della liberalizzazione integrale tutto verrà visto come illegittimo dal punto di vista di questo accordo. Grazie, rimanga con noi perché tra poco diamo la linea al giornale radio, poi torniamo per le conclusioni. Ci sono macchine che sono in grado di terminare il processo di invecchiamento di un salame in 3 ore, altro che mesi e anni del prosciutto di Parma. La posizione dell'Italia su questa qual è? Ne discutiamo dopo il giornale radio. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Cos'ha a che vedere la ridotta fertilità, diciamo così, dei giovani maschi di Lipsia Amburgo con il TTIP? E abbiamo sollevato questa domanda, ripresa da un giornale tedesco, perché uno dei pochi che ha seguito cosa sta succedendo con questo trattato che si sta mettendo a punto tra Europa e Stati Uniti, e in Italia è stato ripreso da Internazionale. Internazionale, che traduce il meglio dei giornali stranieri, ha dunque acceso i riflettori su questo grande problema. La scarsa fertilità maschile, per arrivare alla domanda che ha sollevato molti problemi e ci sono dei messaggi preoccupatissimi, potrebbe, secondo alcuni scienziati, essere colpa del bisfenolo A. Questo bisfenolo A è una di quelle sostanze chimiche contenute in alcuni tipi di plastica, per esempio quelle degli imballaggi alimentari, non tutte, alcune bottiglie. In Europa è vietato usarlo nei biberon. Se passasse questo trattato, sarà possibile introdurre anche altre limitazioni, non solo i biberon? Lo stanno chiedendo in questo momento Svezia e Francia. Ci sono poi gli esempi delle multinazionali che hanno citato in giudizio gli stati. È già accaduto in Canada, non stiamo parlando adesso di scenari futuristici in cui la dietrologia prende il sopravvento sul buon senso. Pensate che in Canada la pratica del fracking, vale a dire dell'estrarre petrolio con una tecnica che causa dei riconosciuti danni all'ambiente, è stata contrastata dal Quebec. Il Quebec è una delle province del Canada e tra l'altro una delle province più avanzate in tema di sicurezza, sensibilità non solo agroalimentare ma tutela dei consumatori contro gli interessi sfrenati a volte delle multinazionali. Ebbene, un'azienda di fracking ha citato in giudizio il Quebec, condannando la provincia a pagare $250,000 per danneggiamenti a quelli che sono gli interessi di questa azienda petrolifera. Questo si potrebbe riprodurre, visto che è stato firmato l'accordo commerciale tra Unione Europea e Canada, anche più vicino a casa nostra. La Merkel si è dimostrata molto tiepida e ha detto: attenzione, no, non sono d'accordo nemmeno a che, questo secondo fonti diplomatiche di Bruxelles, si arrivi alla firma col Canada. Ora, il Canada ha solo 31 milioni di abitanti, è un'area molto vasta, più grande dell'Europa dal punto di vista geografico, ma dal punto di vista demografico ha naturalmente un peso inferiore di quello che può avere la popolazione sempre dall'altra sponda dell'Atlantico, cioè degli Stati Uniti. Se il TTIP andasse in porto, si creerebbe questa free zone che spazzerebbe via molti dei limiti ottenuti da anni di battaglie in difesa di standard sociali e ambientali e da questa parte del pianeta, cioè vale a dire in Europa. E torniamo con i nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Moltissimi ci hanno scritto dicendo che non solo sono preoccupati ma addirittura schifati. E sentiamo cosa avete da dire. Antonio, pronto, buongiorno. Prima è caduta buongiorno, la linea. Sono Antonio da Caserta. Bene, dica. Vi pregherei di non spegnere i riflettori su questo argomento, perché da quello che ho capito è impressionante. Noi perderemo la qualità del Made in Italy, ma la perderemo, perché la carne con la somatotropina accelera l'accrescimento dell'animale in una maniera esponenziale, inverosimile. Ma oltre all'accrescimento della carne, anche la produzione del latte, quindi questo per il settore lattiero-caseario, per il settore della carne, ma è una cosa impressionante quello che potrà succedere, perché noi abbiamo una qualità che oggi è basata su una tempistica naturale, fondamentalmente, perché noi non possiamo in Italia utilizzare questi prodotti, perché altrimenti gli animali verrebbero immediatamente abbattuti dai cacci, dagli organi competenti. Se questo invece dovesse passare, sono acceleratori della crescita, diciamo così, per semplificare, per sono cui gli stessi ormoni che usano i culturisti per farsi aumentare i muscoli, però sono anabolizzanti, sono tutti gli effetti di legge, cioè, la convenienza di questo tipo di ormoni, e io consiglio a tutti un documentario che lo spiega benissimo, Food Inc., sta nel fatto che un animale che deve essere alimentato, cresciuto in tot dei mesi, anni, raggiunge quel peso e quindi può essere macellato nel corso di poche settimane invece che mesi, con immaginate quali risparmi per l'industria che lo deve mantenere. Antonio, grazie per questa segnalazione. Torniamo al nostro amico e giornalista spagnolo, specialista di questo tipo di pratiche. Si perderebbe dunque tutta questa enogastronomia di qualità, Rossen Domenech, se dovessero passare queste liberalizzazioni totali nel campo alimentare? Ah, potete salutarla definitivamente. Già adesso ci sono problemi con tutte le regolamentazioni che ha l'Europa. Immaginarsi dopo, quando qui arrivino magari con cloridrato e polli lavati con cloro, che tutto qui è proibito in Europa. E questa agricoltura, e non solo agricoltura di qualità, che fa l'Italia, che è l'unico paese in Europa e quindi nel mondo che si dedica a questo, si è specializzata in questo, questo va a farsi benedire, perché i criteri, cioè cambia il modello con questo trattato, nel caso che passasse, che non è detto, cambierebbe il modello di sviluppo. Cambiando il modello di sviluppo, noi europei ci perdiamo, perché abbiamo un criterio diverso da quello degli Stati Uniti. Noi qui, a un signore che vuol mettere nel mercato qualcosa, l'Unione Europea e quindi i paesi dell'Unione Europea chiedono di dimostrare che è innocuo, mentre negli Stati Uniti è al rovescio, sono le autorità che devono dimostrare che fa male per toglierlo dall'impiego. È il meccanismo che abbiamo spiegato prima. E vorrei chiedere anche al segretario generale del Movimento dei Consumatori, Alessandro Mostaccio, se ha notato preoccupazione in questo senso da parte di coloro che aderiscono al movimento, perché abbiamo visto la distrazione della stampa, la distrazione dell'informazione, i cittadini che viaggiano, diciamo così, o che vengono a conoscenza di questo tipo di notizie, vi hanno contattato, vi hanno chiesto tutela? Ma guardi, dire che i nostri sportelli del consumatore vengano soddisfatti di telefonate di cittadini preoccupati su questo tema, direi proprio di no. Troviamo un'attenzione forte da parte delle giovani generazioni, studenti universitarie, intellettuali, insomma chi ha più tempo di studiare e di informarsi. Per adesso un feedback vero delle nostre strutture operative sul territorio su questi temi devo dire che non c'è. Ci telefonano quando hanno una problematica, una controversia, ma non e ancora è troppo prematuro. 800 24 00 24 il nostro numero di telefono. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, dica. Ma io volevo dire che a me sembra, sono un po' infastidito personalmente, non so se altri ascoltatori come me, da un'impostazione di tono che dà proprio per scontato in partenza che le belve multinazionali abbiano sempre torto e che invece i paesi, le legislazioni abbiano sempre ragione. Mi sembra una retorica francamente inaccettabile, cioè non vedo niente di strano se una multinazionale fa una causa ad uno Stato per vedere difesi i propri diritti. Se poi ha torto o ragione, nel caso del Quebec evidentemente aveva ragione, cioè qual è il punto? Quindi non capisco questa cosa per cui le multinazionali devono essere sempre diavolo e quindi, come ha detto lei, gli sfrenati interessi delle multinazionali. Le multinazionali fanno i loro interessi, ovviamente. Se poi un paese mette delle legislazioni che sono liberticide, magari, dico magari, non è detto, ma in qualche caso saranno giuste e in altri casi saranno sbagliate, punto. Grazie Alessandro. La visione critica, come avete sentito, di questa impostazione è chiaro che si mette su un piano diverso quello che è l'interesse pubblico e quello che è l'interesse di una multinazionale quando si fanno analisi di questo tipo, ma questo è lo scopo dell'informazione. È chiaro che se poi uno lavora per le multinazionali, giustamente vede più che legittimo che siano le multinazionali ad avere la possibilità di fare fracking in Quebec, anche se questo provoca nelle formazioni porose di origine argillosa dei danni ambientali terribili e ovviamente quando si parla di interessi commerciali e danni ambientali, ma questo la storia ce l'ha insegnato, non si guarda. È una questione di priorità. Ha ragione Alessandro a dire una cosa, l'abbiamo sottolineata più volte nel corso della trasmissione, che se questo accordo si dovesse invece dimostrare di beneficio e portare benessere senza far approdare polli agli ormoni o cose di questo tipo nei nostri supermercati, saremo ben contenti, noi che abbiamo sollevato la questione, di cambiare idea. Professor Cantaro, ha sentito l'obiezione? Quelle multinazionali non sono sempre è ragionevole. Non sono sempre il diavolo. ragionevole in questo senso, cioè nel senso che noi non stiamo discutendo degli interessi delle multinazionali che legittimamente dal loro punto di vista fanno il loro interesse, noi stiamo discutendo del silenzio, dell'inerzia, della distrazione e degli stati rispetto a materie che sono di interesse pubblico. Gli interessi commerciali delle multinazionali, delle imprese in genere, sono interessi del tutto legittimi, però quando sono in discussione assiomi indiscutibili come la sicurezza alimentare, la sicurezza sul lavoro, la sicurezza ambientale e addirittura il potere di giudicare sui reati o sugli illeciti che vengono fatti, questo trasferirlo alle imprese multinazionali dal punto di vista delle multinazionali è chiaramente un vantaggio, però vengono in discussione i fondamenti della nostra convivenza. Credo che ci siano preoccupazioni di questo genere anche negli Stati Uniti, non sono soltanto preoccupazioni europee. Sono molti infatti i movimenti, lo citavamo prima, di tutela dei consumatori che hanno lanciato l'allarme anche dall'altra parte dell'oceano. Antonio Cantaro è il professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Urbino, che è stato con noi fino a questo punto e che ci deve salutare. Grazie per il suo tempo, professore. A voi e un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Buon lavoro. Grazie, grazie professore. Domenech, concluderei con te. Tu sei un giornalista, ti sei occupato di questi temi, naturalmente il potere delle lobby porta avanti degli interessi che possono essere più che legittimi, ma che nulla hanno a che fare invece con l'interesse collettivo. Quando tu ti sei trovato a discutere, a scrivere di quello che sta accadendo in queste reading room europee, è soprattutto la mancanza di trasparenza che ha preoccupato, al di là del trattato, e il tema delle controversie che non verrebbero, lo ripetiamo, discusse in un normale tribunale, ma sono insindacabili, quindi non c'è possibilità di fare appello, e sono sarebbero curate da questi tribunali arbitrali. Di cosa si tratta esattamente, Domenech? E qui è una risposta all'ascoltatore che ha appena chiamato, perché il problema non è che una multinazionale faccia causa a un governo per una legge che considera sbagliata oppure contro i suoi interessi, che è quello che già succede adesso nella pratica. Il problema è che la giurisdizione si trasferisce dai governi nazionali a un arbitrato internazionale, cioè a un gruppo di persone, una specie di tribunale, chiamiamolo così, che deciderà, dirimirà la questione che pone la multinazionale a un governo, con la prevalenza della decisione di questi arbitri, prevarranno sopra le leggi nazionali, che vuol dire che i governi perdono potere rispetto alla legislazione su questi argomenti. E questo è il problema, non che una multinazionale faccia causa al governo. Cosa che avviene già, e quindi questo scavalcamento dei tribunali statali, questo è il problema di questo TTIP. Anche a diminuzione della sovranità nazionale, che alla fine vuol dire diminuzione del ruolo dei cittadini, che diventano consumatori e basta. Grazie mille anche a Rossen Domenech, giornalista e inviato in Italia del quotidiano spagnolo El Periodico, che si è affacciato anche a nome degli italiani su quello che sta succedendo in Europa. E grazie naturalmente ad Alessandro Mostaccio, segretario generale del Movimento dei Consumatori. Noi tra poco cambiamo pagina. Alcuni dei vostri SMS, dunque, perché si parla dell'utilizzo nella somatropina sugli animali? E questo è un atteggiamento scandaloso, parlarne con tante leggerezze. Ma non crederete, ci dice anche qualcuno, che la carne in Italia sia tutta ok fino a questo punto. E poi c'è chi segnala di non aver problemi perché non mangia carne. Naturalmente non parlavamo delle abitudini specifiche individuali. Abbiamo abbiamo preso ad esempio alcune delle pratiche che potrebbero essere adottate e rese lecite in campo agroalimentare. Sono preoccupato che qualcuno decida per 700 milioni di persone in segreto, e questo è il messaggio che ci è arrivato da Max di Roma. Poi ancora persone che temono l'utilizzo e l'introduzione massiccia di ormoni. Noi europei dobbiamo farci sentire e non dobbiamo diventare semplicemente provincia dell'America. Chi la butta sulla politica interna? Noi abbiamo avuto 3 governi consecutivi non votati e dunque la nostra opinione non conta, questo trattato è un'oscenità, e così via. Questi sono i messaggi che stanno arrivando al 349 238 6666. Poi chi dice bisogna raccogliere, fare una raccolta di firme tra i cittadini. Cercate intanto su internet tutto quello che c'è su NoTipe, ci sono già diverse associazioni che si stanno muovendo. C'è chi dice di aver letto l'articolo di Internazionale e dice che comunque questo trattato presenta una serie di opportunità per gli europei, e questo riguarda naturalmente la possibilità per l'industria automobilistica, per esempio, per concludere, di non dover applicare standard diversi quando si producono automobili per il mercato europeo o per il mercato degli Stati Uniti. L'articolo citato faceva un esempio molto pratico: la costruzione di cruscotti diversi a causa di accordi che esistono sulle normative che regolano la circolazione di autoveicoli e sicurezza sulla strada, quindi la deformazione ammissibile del metallo in caso di urto laterale o frontale, le diverse velocità di impatto. Oggi come oggi questo richiede uno sforzo ai produttori automobilistici. Se si uniformassero le regole avrebbero da guadagnare su questo versante anche gli europei. Insomma, temi molto importanti, intriganti e articolati, sul quale avrete modo di tornare anche da Radio 24. Questa è la penultima puntata di Spunti di Vista, sono molti a sollecitare un ritorno su questo tema, e naturalmente un messaggio che devo passare ad altri giornalisti perché domani concludiamo. Noi invece parliamo ora di numeri, possiamo dire così? Purtroppo sì, perché purtroppo a questo viene ridotto il fenomeno della violenza sulle donne. Tutte le stati ci troviamo a contare, sono state 144 dal 14 agosto dell'anno scorso al 31 luglio di quest'anno le donne che hanno perso la vita per la violenza degli uomini, contro le 152 dello stesso periodo precedente. Ma perché non ci fermiamo a capire qual è l'origine di tanta violenza? È una sollecitazione che arriva da Dacia Maraini e la raccolta il presidente degli avvocati matrimonialisti Gianetto Regassani, che ha detto in un suo intervento: possiamo fare qualcosa non solo inasprendo le leggi ma cambiando le favole, riferimento naturalmente alla mentalità e alla cultura. Ma cosa intendeva dire? Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi. Gianetto Regassani, che cosa intendeva dire suggerendo di cambiare le favole? Ma io credo che fondamentalmente inasprire le pene, cambiare il codice penale, cambierebbe poco questo fenomeno, che è un fenomeno fondamentalmente culturale, un fenomeno sociale particolarmente radicato in un paese dove fino all'81 esisteva il delitto d'onore, cioè la donna era un territorio da conservare. E quando dico cambiamo le favole, perché secondo me bisogna cominciare dai primi anni dell'infanzia a cambiare un po' il messaggio che le favole danno. Cenerentola, Biancaneve e i sette nani, questa donna che deve aspettare il principe azzurro per poi essere mantenuta, questa donna che deve fare la fila con la scarpetta col numero giusto per dimostrare che lei l'ha prescelta. Insomma, tutto questo va cambiato, nel senso che la cultura sociale già dai primi anni di vita dei nostri bambini deve essere cambiata. Cioè la donna non è più la preda, il territorio da conservare, se la donna va via deve essere uccisa, bisogna lavare col sangue questa onta, perché le favole ci hanno insegnato altro, perché quello che ci dicono i nonni, gli zii, i genitori ci dicono altro, i messaggi potenti di queste di queste favole, ma più o meno della, dei racconti che si fa sempre della donna che aspetta l'uomo, di Penelope. Beh, basta, basta, perché non basta cambiare il codice penale, non basta inasprire delle pene, non basta far scattare le manette per cambiare la cultura di un popolo. Bisogna iniziare anche di scuola, poi magari il legislatore cambierà anche le leggi, si potenzieranno i servizi, i centri antiviolenza, ma secondo me non si è mai risolto un problema sociale che può essere la camorra, la mafia, la violenza alle donne a colpi di codice penale. Non è mai stato così. Solo inasprendo le pene. Nonostante questo, lei trova, le chiedo comunque, avvocato, un giudizio su questo inasprimento e sull'introduzione di legge di stalking? È comunque un elemento, uno strumento che può essere utile? Beh, sicuramente la legge sullo stalking che noi abbiamo avvarato soltanto nel 2009, attenzione, quindi praticamente ieri, beh, è stata comunque importante, non possiamo negarlo. Per cui, se non altro, è stato il riconoscimento da parte del legislatore dello Stato italiano che lo stalking è un reato, perché fino al 2009, quando io mi presentavo davanti alle forze dell'ordine per denunciare lo stalker, chiaramente il maresciallo diceva: beh, se il signore manda 300 rose al giorno alla signora, qual è il problema? E giustamente il maresciallo mi rispondeva così e io rimanevo senza parole. Poi finalmente ci si è accorti che anche le troppe attenzioni possono essere una forma di violenza, non ne parliamo poi dello stalker, quello violento già in partenza. Quindi qualcosa è stato fatto, ma credo fondamentalmente, da giurista, da uomo di trincea che sta in tribunale, sta nelle procure, che non basta mettere in prigione le persone, bisogna costruire la loro coscienza fin da piccoli. Perché ma un uomo lei di 40 è anni anche padre? È anche Io sono padre. Anche padre di una figlia. E sulle favole e come si regola, avvocato? Con le favole io ho cercato sempre innanzitutto di rendere già mia figlia, che è piccola, già diversa, non è una terra di conquista. Mia figlia deve essere una donna libera. Io sto lottando affinché mia figlia non passi neanche un minuto di quello che molte donne passano oggi. Deve essere una donna libera, non deve avere bisogno di un uomo che la mantiene. Lei deve essere libera con se stessa, le sue scelte devono essere indipendenti. Perché guai chi toccherà mia figlia, chi offenderà, chi la umilierà. Io ritengo che chi ha una figlia, chi ha una sorella, chi ha un'amica del cuore, sa perfettamente che la violenza nei confronti delle donne è veramente un crimine insopportabile che nasce però dalla sottocultura. Grazie. E sentiamo anche voi ascoltatori. Franco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io vorrei porre l'attenzione su altre donne che sono le madri degli uomini violenti, che molte volte probabilmente hanno subito a loro volta violenza, ma giustificano i loro figli. Io mi domando, la generazione che sta venendo avanti, dove, come ne ha parlato anche l'altro giorno, parlando del che sembra che ci sia geneticamente la predisposizione a certe tare di perpetuare quello che hanno fatto i padri. Allora io mi chiedo, le generazioni dei figli che, a cui non viene mai detto no da nessuna parte, dove tutto è permesso, poi quando troveranno magari una donna che gli dice no, questi qua vanno via di testa, allora credo che culturalmente siano le madri, altre donne, che devono educare i figli al rispetto e non a giustificare davanti a tutto, davanti alla società. Bellissimo tema, lei ha sollevato il ruolo di responsabilità, il ruolo politico svolto nella società dalle madri di figli maschi, come abbiamo sentito, un padre e avvocato di figlie femmine. Tra poco torniamo per parlarne con Dacia Maraini, che proprio ha sottolineato come sia il terreno culturale un'altra volta quello su cui agire. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. 9.34, ancora un saluto da Irene Zerbini. Sorrido perché uno dei messaggi che è arrivato chiede: ma negli altri paesi, quelli in cui uccidono meno donne, che favole leggono. E se c'è qualcuno all'ascolto che ci può informare su questo, magari da Danimarca, Belgio, però anche la Scandinavia non è risparmiata dal fenomeno del femminicidio. Non c'è un paese in cui si sia trovata la soluzione, nonostante l'emancipazione della donna, nonostante la scolarizzazione, nonostante il welfare e l'indipendenza economica di grande parte della popolazione, eppure è un problema che trasversalmente, naturalmente in diversi gradi, colpisce ancora tutti gli stati. Intanto buongiorno a Dacia Maraini, benvenuta. Buongiorno a voi. Scrittrice, e ha scritto questo pezzo il martedì 26, cioè 2 giorni fa, Uomini fragili che diventano carnefici per un'arcaica cultura del possesso, sul Corriere. Ma lei sa, Dacia Maraini, che alcuni ascoltatori hanno citato come risoluzione uno dei suoi libri su Chiara di Assisi, la santa che nella grande storia scritta dagli uomini ha sempre vissuto all'ombra di Francesco. Così ci dice un SMS. Perché? Qual è il messaggio di Chiara d'Assisi? Il messaggio di Chiara è un messaggio di grande indipendenza. Bisogna anche entrare nella storia e capire che mondo vivevamo, in un totalitarismo religioso, quindi Chiara, opponendosi a certe regole della Chiesa, della struttura verticale autoritaria della Chiesa, diventa una disobbediente, però lo fa con una tale grazia, con una tale rispetto, che non possono dirle nulla, insomma, è anche praticando il digiuno, praticando l'obbedienza, praticando la reclusione e soprattutto l'umiltà, e quindi non le possono dire nulla, però in effetti lei è in contrasto col papato, con le regole del papato, e riesce in qualche modo a imporre la sua volontà, che era quella poi di vivere di elemosina, di essere povera. Lei voleva il privilegio della povertà. Senta, Dacia Maraini, ha sentito la provocazione, ma non era nemmeno una provocazione, proprio quello quanto detto dal presidente dei matrimonialisti: si impara la sottomissione già dalle favole in cui la bambina aspetta il principe azzurro. No, ma io sono molto d'accordo con l'avvocato, ha detto delle cose molto belle. È vero, i modelli che noi abbiamo, da quelli più antichi, che sono le favole, a quelli più moderni, che poi sono quelli che vediamo in televisione tutti i giorni, anche i giochi elettronici, sono basati sul principio della preda, cioè l'uomo è il predatore e la donna deve essere la preda. Preda che a volte si fa seguire, che a volte seduce, però sempre preda. E ha ragione l'avvocato quando dice: ma io voglio che mia figlia sia libera, non che stia lì a aspettare il bacio del principe azzurro. Quindi anche le favole effettivamente hanno una funzione educativa. Secondo me però non bisogna prendersela con le favole. Le favole esprimono un'epoca. Quello che è importante è far capire che queste favole appunto rappresentano qualcosa di passato, commentarle. Far capire che è una memoria storica, che a volte è molto poetica, che però non vanno prese sul serio. Dica. Scusi, Dacia Maraini, venendo poi dalla suggestione delle favole alla problematica che stiamo affrontando oggi, sì, anche le ultime donne uccise, tra l'altro non sono solo donne ma anche bambini, perché parliamo anche di bambine, e nel suo articolo percorre molto bene anche la tragedia della donna che lavorava in una villetta di Roma, la colfo badante, che è stata flagellata da quest'uomo che probabilmente non aveva nessun legame addirittura con lei. I giornali liquidano tutto con raptus, ma il raptus può spiegare questo? No, quanto accade? L'ha detto molto bene uno psicanalista, il raptus non esiste, perché in un certo senso è quasi giustificativo il raptus, è come se una persona normale viene improvvisamente così fulminata da un'ira improvvisa e uccide, ma non è così. C'è dietro una cultura, c'è qualcosa che cova, e che di solito, infatti, poi queste persone che uccidono danno dei grandi segnali. Infatti non è un caso che molte di queste donne, che alla fine poverette vengono uccise, addirittura hanno denunciato, ma non una, 30 volte. E però, come spesso succede, se non c'è il fatto, è difficile se non c'è la violenza in atto è molto difficile fermare una persona. Però il raptus è proprio un luogo comune giornalistico che non dice assolutamente nulla, che non spiega nulla. C'è una cultura arcaica a cui certi uomini, soprattutto quelli più deboli, più fragili, più impauriti, soprattutto impauriti dalle nuove libertà femminili, è un risultato dell'emancipazione femminile. Si spaventano, hanno una tale paura di perdere i propri privilegi che entrano in crisi e possono anche uccidere, e molti lo fanno, addirittura uccidere le figlie, come è successo con due padri che lei avrà seguito dalla cronaca degli ultimi mesi, l'ultimo mese. Sì, poi stamattina sul Corriere si ritorna a parlarne perché una delle bambine dice: non voglio più dormire nella stanza d'ospedale dove si è risvegliata da 3 giorni, adesso ha paura di dormire. Ha paura, certo. E chiaramente viene riportata anche questa tragedia successiva della inconsapevolezza di questa bambina riguardo a cosa è accaduto fino in fondo, e non aggiungo altro nel caso appunto sia l'ascolto. A me fa sorridere anche questa cosa, i giornalisti non hanno detto a questa bambina che è morta la sorella, perché lo scriviamo allora? Perché pensiamo che una ragazzina di 14 anni non legga i giornali o possa non avere in mano una copia del Corriere? Infatti, non capisco. Peggiore poi di venirla a sapere, no? Non capisco questa cosa nel sommario di questo articolo. Comunque, al di là di questo, Dacia Maraini, lei dice che è molto importante che siano gli uomini a denunciare, c'è una partecipazione attiva degli uomini. Perché devono essere gli uomini ad alzare l'allarme su questa situazione? È più efficace il messaggio dell'uomo all'uomo? No, perché così si dimostra che non è una guerra fra i sessi, ma che è una guerra di cultura. E quindi un uomo che si indigna di fronte alla violenza contro le donne dimostra di essere dalla parte della cultura giusta, voglio dire, di quella, la cultura che accetta il rispetto dell'altro. In fondo tutto questo è legato a una forma molto antica di cultura che per esempio è basata sul possesso. Quindi io ti amo e quindi ti posseggo. Ha fatto bene a precisare che non è una guerra tra i sessi, perché alcuni degli ascoltatori dei nostri messaggi sono infastiditi quasi come si sottolineasse l'aggressività come caratteristica solo maschile. Non è così, non è quello che lei sta facendo. Qual è la differenza tra l'aggressività? La natura umana contiene sia l'aggressività che la dolcezza, ma è dell'essere umano, di tutti, uomini e donne, di essere violenti e aggressivi. La educazione, la religione, la cultura sono lì proprio per mitigare questa aggressività, per rendersi conto che per vivere insieme bisogna rispettarsi e rispettare delle regole, no? Ecco, le donne che sono state tenute in soggezione hanno sviluppato una capacità di sublimazione maggiore per ragioni storiche. Perché quando si scatenano le donne possono essere terribili, peggio ancora degli uomini, quindi non è una questione di natura, la natura non c'entra niente, la natura contiene in sé il male e il bene, cioè l'aggressività, la violenza, ma anche l'accudimento, la dolcezza, la cura, l'affetto, l'amore, le due cose convivono, però se siamo persone umane e quindi pretendiamo di essere superiori agli animali, pretendiamo di controllarci e di creare una società che funziona, dobbiamo imparare a gestire e a controllare i nostri istinti aggressivi. Le Grazie. Donne hanno imparato un po' meglio per ragioni storiche. No, per ragioni storiche. Per ragioni storiche, chiaro, non per virtù innate, questo va precisato. Grazie a Dacia Maraini, naturalmente, per questo intervento e questa analisi. Vogliamo sentire anche voi. 800 24 00 24. Qualcuno mi chiede qual è il libro, Chiara di Assisi, Elogio della disobbedienza, e l'autrice è stata nostra ospite. È un po' il ritratto di questa Chiara, che è una donna che ha saputo dar vita a un linguaggio rivoluzionario, cioè andata contro le regole del suo tempo. Michael, buongiorno. Pronto? A voi, eccomi qua. Buongiorno, dica Michael. Vorrei contribuire, ringrazio dell'invito, vorrei contribuire brevemente in questo. Intanto Dio benedica l'intervento dell'avvocato di prima e della Maraini. Riassumo, mi occupo di stalking dall'81, ne sono stato vittima quando giovane assistente universitario in un college negli Stati Uniti, sono stato coinvolto in maniera violenta da due studenti che ho dovuto denunciare per illeciti scolastici. Negli Stati Uniti è diventata legge nel 94, mi pare nel 2009, come ricordava l'avvocato, è diventata legge in Italia. Oggi, come esperto non solo del settore ma law enforcement, ho lavorato anche per molti studi legali, mi trovo ancora coinvolto in cose dove faccio fatica, mi ricollego agli interventi precedenti, a cercare di spiegare la necessità di fare la denuncia, eccetera, eccetera, perché a volte le donne sono vittime di loro stesse, a mio avviso, timorose, proteggono, spiegano, eccetera, perdiamo tempo. Dall'altro lato trovo ancora una inadeguatezza, scusate, delle istituzioni, tempi lunghi, impreparate, mancanza magari di mezzi, di strutture, di diciamo capacità operativa organizzativa. A volte, in due casi e chiudo, ci sono volute veramente tempi lunghi e un'opera grande di convinzione, non sottovalutate il problema, nello stalking una coppia di professionisti, persone intelligenti, educate, hanno sottovalutato nel giro di 3 mesi 1500 telefonate notturne con una persona che poi pedinava, la moglie di questo signore, identificata in tempi brevi e poi però tempi lunghissimi da parte delle istituzioni per potersi muovere. Ma scusi Michael, dalla sua esperienza quindi il suo messaggio qual è? Non sottovalutare i segnali e agire dall'inizio? Perché spesso la tendenza alla donna, lei ha ragione, è quella di pensare si stancherà, smetterà da solo. Brava, non solo. La donna, io ho un caso ultimo di un giovane medico, probabilmente ancora, e fa bene la Marini, l'uomo deve farsi avanti, l'uomo deve denunciare, deve collaborare. Io lo faccio, ma faccio fatica laddove devo spiegare, coinvolgere a volte altri, ne sto parlando con un medico, criminologo e psichiatra, perché collaboro e condivido queste tematiche, faccio fatica a spiegare di non sottovalutare la cosa quando una persona spesso durante la notte è in macchina sotto il palazzo che l'aspetta, vuole vedere se viene, eccetera, eccetera, o chiede aiuto ad altri inventando i motivi per cui si trova lì e così via. Quindi è vero, coraggio, assistenza a queste donne che purtroppo sottovalutano, questo è uno dei problemi. E l'altro, a crescere nel chi di dovere, la necessità della tempistica. Chiaro, grazie mille a Michael, operatore del settore, come avete sentito, lui stesso vittima di stalking in un college negli Stati Uniti negli anni 80. 349-238-6666, questo è il numero degli SMS, e il numero telefonico invece 800-24-0024. Viabilità. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Attenzione, non esiste violenza di genere ma solo violenza e basta, questo ci segnala Ornella, una delle ascoltatrici. Liliana, buongiorno, pronto? Pronto Liliana? E in questo momento se n'è andata Liliana. E dunque non esiste una violenza specifica, semplicemente bisogna educare al rispetto in generale dell'altro. E poi c'è un livore pazzesco contro le donne che lasciano da parte dei nostri ascoltatori, che dicono: ma vogliamo dire per quante donne vengono uccise, quanti uomini sono costretti a vivere in macchina perché devono pagare gli alimenti? Scusate, ma non vedo la connessione tra le due cose. Cosa c'è? Questo è un modo un pochino semplicistico di giustificare la violenza di una situazione che ti ha costretto magari anche in ristrettezze economiche. Ma diamo la voce agli uomini, perché molti hanno deciso, dopo episodi di perdita di controllo, di chiedere aiuto. Roberto Poggi, buongiorno. Pronto? Pronto, mi sente? Sì, senta, lei è presidente dell'associazione Il Cerchio degli Uomini, di che si tratta? Sono stato presidente, in questo momento sono coordinatore. Il Cerchio degli Uomini è un'associazione nata 15 anni fa per riflettere sul cambiamento del maschile, sul nuovo modo di essere uomini al mondo oggi e nelle relazioni tra uomini e con le donne. E in questa riflessione, dopo alcuni anni, abbiamo capito che non si poteva parlare di cambiamento del maschile se non ci si occupava del fenomeno della violenza, che mi permetta il nome fenomeno, ma è un po' inadatto, della violenza sulle donne, quindi abbiamo cominciato a occuparcene. E l'uomo risente degli stereotipi per cui ci sarebbero pressioni che in qualche modo alimentano la sua fragilità. Prima Dacia Maraini parlava di questa fragilità alla base del fatto di diventare carnefici. Lei, che ha esperienza con questi uomini che hanno esercitato violenza in passato, cosa può raccontarci? Ma sicuramente la fragilità degli uomini culturalmente e non può emergere se non a uno sminuimento della figura della persona, per cui il problema culturale è enorme. Mi ha fatto piacere sentire il dottor Grassani parlare di donne libere. Franco ha parlato delle madri degli uomini violenti e Maraini ha tirato fuori il problema degli uomini. Allora, donne libere con uomini liberi. Allora, tocca anche agli uomini liberarsi di un certo tipo di cultura patriarcale, maschilista, ma senza andare a finire in questa terminologia che a molti è ostica, in questa cultura della prevaricazione. Ecco. E da chi viene trasmessa, secondo lei? Si sono nominate le favole, si sono nominate le madri? Si è nominata la società, da chi viene trasmessa questa cultura della prevaricazione? Viene trasmessa dalla famiglia sicuramente, perché noi prendiamo quando nasciamo dalla famiglia, ma comunque pervade tutta la nostra società. Noi non siamo fuori da questa cultura, anche se noi lavoriamo da tanti anni, da 20 anni sul cambiamento del maschile. Noi uomini che stiamo lavorando non siamo fuori da questa cultura, ci continuiamo a riflettere sopra per creare un nuovo modo di essere uomini che non sia legato al bisogno di prevaricare, al bisogno di possedere, al bisogno di controllare, ma siano uomini liberi che sappiano essere liberi nei rapporti con donne libere. E questo come principio è più che encomiabile, ma quando lei ha a che fare con questo tipo di persone, visto che di questo vi occupate nel cerchio degli uomini, e qual è il messaggio che funziona? Qualcuno diceva: non puoi cambiare una persona a 40 anni, è vero? No, non è vero, noi abbiamo tanti casi di persone che hanno cambiato il loro punto di vista, lo stanno cambiando, eccetera. In un ambito di confronto, prima in colloquio individuale, poi in gruppo, ci si ragiona sopra e si vede quali sono le vere basi della prepotenza, le vere basi di alzare le mani, le vere basi di alzare la voce, eccetera, che non stanno dietro una posizione di forza, stanno dietro una posizione di estrema fragilità. Allora, lavorando sul riconoscimento di questa fragilità e lavorando su quello che noi possiamo mettere al posto di questa fragilità, otteniamo sicuramente grandi cambiamenti in questi uomini. Poi non tutti diventano santi, anzi nessuno diventa santo per fortuna, ma molti diventano invece uomini diversi. Grazie a Roberto Poggi. Nicoletta Sipos, buongiorno. Buongiorno. È una sociologa, scrittrice, studiosa della storia del matriarcato, tra l'altro, e lei incontra i ragazzi e le ragazze nelle scuole, Nicoletta Sipos. Il suo libro, Il buio oltre la porta, è stato tratto dalle confidenze, quindi da una storia vera di una professionista, di una famiglia molto in vista della Milano Bene, dove il marito, uomo, padre e professionista di grandissimo successo, massacrava la moglie regolarmente tutti i giorni, senza che questa donna, più che emancipata, chiedesse mai aiuto né denunciasse. Per anni poi c'è stata la svolta. Perché ci sono questi meccanismi, secondo lei, Nicoletta Sipos? Perché, allora, io parlando con i ragazzi delle scuole, con i professori, eccetera, sono tornata molto indietro, cioè parlare prima del matriarcato. Il matriarcato poteva essere, dico, è un'ipotesi storica, poteva essere lo stato in cui si viveva 20.000-30.000 anni fa, quindi un bel po' di tempo fa, che a un certo punto però è stato cambiato questo matriarcato, perché sono sopraggiunte dei fattori nuovi che hanno cambiato la parità originaria tra i sessi. Io vado un attimo controcorrente, seguo il filone degli studiosi della non violenza. Questi studiosi suppongono che l'aggressività, certo, fa parte della nostra natura, però in origine prevaleva la solidarietà, la complicità, l'aiuto tra i sessi. ed è anche una posizione abbastanza logica, perché non saremmo arrivati al punto in cui siamo oggi, cioè non, la razza umana si sarebbe estinta se uomini e donne non si fossero coalizzati per mantenere la specie e non ci fosse stato un rispetto della maternità, dei bambini, eccetera, eccetera. Che cosa è intervenuto? Circa 10.000 anni fa due fattori: l'invasione di popoli indoeuropei guerrieri, vedi dove andiamo lontani, che ha cambiato questi parametri, secondo lei, di solidarietà tra i sessi, che si potrebbero ripristinare con degli interventi culturali? Allora, sicuramente va benissimo distinguere il nucleo delle favole, tra l'altro le favole risalgono a circa 30-40 mila anni fa, erano proprio un fattore di educazione. Abbiamo un minuto, Nicoletta Sipos. Ah sì, allora niente, certo che si potrebbero ristabilire, però ci vorrà molto molto tempo, cara la mia Zerbini, perché noi abbiamo ormai nel DNA questo senso di possesso, bisogna sradicare questo senso di possesso, andando nelle scuole a predicare quello che è stato e come si poteva, come si eravamo in origine e come potremmo ridiventare, può secondo me aiutare, si può cambiare come diceva Roberto Poggi a 40 anni, magari è più facile cambiare a 14-15. Senza dubbio, grazie a tutti voi che siete intervenuti per questo tema importantissimo, grazie a Laura Faggina, Alessandro Longoni che hanno lavorato con me in redazione, Lucia Tolve e Alessandro Marco Tulli, in regia Peter Bescapè. Da Irene Zerbini appuntamento a domani mattina alle 8:10.